per la tua pubblicità. CRM 0921 42 3456. Quella tra una novità e l'altra, domenica 23 settembre 2012, così ricordiamolo subito, la giornata è splendida, oggi pomeriggio vivremo un pomeriggio entusiasmante nella contrada dei Santi Cosme e Damiano, si festeggia questo pomeriggio appunto la ricorrenza e quindi saremo lì. Ci saranno anche le autorità per la messa, per la processione e poi per quei momenti di relax che veramente ci accostano non solo a queste contrade splendide che abbiamo, ma anche a quelle persone semplici alle quali io mi sento molto vicino e molto legato. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi. Presidente Salvo Cimino della SD Calcio Cefalù, e grazie a Pino Minutella che è il tecnico, l'allenatore della squadra. Io vi ringrazio subito, e ringraziando voi ringrazio quanti negli anni, senza un campo sportivo degno della città di Cefalù, ce l'hanno messa tutta, hanno fatto tanti sacrifici per far sì. Io ieri sono ritornato con piacere, non solo per gli inviti che ho sempre avuto da Pino Minutella, ma anche perché riteniamo come CRM con l'editore di darvi il nostro contributo ai vostri sacrifici con le nostre dirette. E le devo dire, caro Presidente, che la radio, la diretta anche ieri è stata ascoltata, perché poi scendendo in paese, ecco, scendendo a Cefalù ho avuto questi riscontri, quindi anche questo è un momento importante di richiamo. Quindi grazie di cuore, grazie soprattutto per aver visto il Santa Barbara, la tribuna della Santa Barbara gremita in ogni ordine di posto. Certo, ancora ce ne possono andare di più di persone, e io sono convintissimo che queste persone arriveranno e arriveranno perché voi avete fatto tanti sacrifici, non solo l'attuale presidente con il suo consiglio di amministrazione, con il magazziniere, con chi va a segnare il campo la domenica, con chi fa tanti sacrifici eccetera, ma perché avete continuato a credere in questo sport per la città di Cefalù, perché Cefalù deve essere presente anche nel mondo del calcio. Quindi questo è un grazie sentito che vi dovevo dire. Adesso parliamo della partita di ieri. Presidente, ecco, se lei vuole dire qualche cosa, perché io vuole anche lei ringraziare qualcheduno, perché sicuramente, io dico sempre nella mia scuola, una persona da solo non fa mai niente e mai nulla, mentre se c'è un gruppo di persone che lavorano e che ci credono, allora poi vengono i risultati, viene soprattutto, ecco, la squadra, ma viene soprattutto e vengono soprattutto questi momenti come quelli di ieri che abbiamo vissuto con piacere. E meno male, devo dire, che abbiamo pareggiato l'incontro con l'Igea Virtus, perché il Cefalù ieri non meritava assolutamente una sconfitta in casa. Presidente. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, io sono pienamente d'accordo. Ieri è stata una bellissima partita, anche se impegnativa. E sono felicissimo del risultato, anche perché questo viene esaltato dal valore dei nostri avversari, che non erano da poco. La mia felicità non va solamente nel risultato, che è stato un buon pareggio, ma più che altro a vedere tutti quegli spettatori che hanno riempito parte della tribuna e hanno esultato nel momento del pareggio. E il mio cuore si è riempito davvero di felicità e mi sono subito dopo complimentato, appena ho rivisto il mister, e per il lavoro svolto in campo, e subito dopo abbiamo festeggiato anche al bar insieme a parte della squadra. Complimenti, presidente, perché tra l'altro già mi anticipava che la voce stamattina un pochino l'ha lasciata tutta alla Santa Barbara ieri pomeriggio. Col mio allievo, nonché tecnico, Pino Minutella, io posso fare un discorso un pochino più tecnico. Intanto complimenti. Complimenti anche per ieri. Però, ecco, io ti faccio la mia disamina proprio personalissima e così ci confrontiamo. Abbiamo una squadra che dal mio punto di vista ieri veramente ha strameritato il pareggio, e se non si fossero sbagliate quelle azioni sotto porta, quei gol quasi fatti, indubbiamente probabilmente ci stava pure la vittoria, senza nulla togliere all'Igea Virtus, che è una squadra che dirà solamente la sua in questo campionato. Secondo me, come è normale che sia quando c'è una squadra giovane, pecchiamo ancora di esperienza. Il campionato di promozione già è un campionato ad un certo livello, il fatto stesso che oltre all'arbitro ci sono i due guardalini, quindi già questo significa quello che significa. Quindi l'esperienza. Caro Presidente, se avessimo una persona dal mio punto di vista a centrocampo magari di maggiore esperienza e un altro sottoporta, probabilmente potremmo, dal mio modestissimo avviso, consolidare anche questi risultati. Al tecnico chiedo questo: ho visto un gioco, sicuramente i ragazzi sono nuovi e quindi non hai avuto nemmeno assolutamente il tempo di presentare proprio e di fare far loro gli schemi, che sicuramente, però ho visto una partita dove si cercava di scavalcare il centrocampo con lanci lunghi. Non ho visto giocare questi ragazzi con palla a terra, che è un fatto importantissimo. E poi, siccome siamo una squadra veloce, perché secondo me negli ultimi 10 minuti l'Igea non c'è più stata in campo fisicamente, mentre i nostri ragazzi non solo hanno creduto, e qua ho visto la tua determinazione sia da giocatore che se giocatore e adesso da allenatore, c'è stato un momento che ti ho visto in campo, ho detto vuoi vedere che lui là si troverebbe in campo, eccetera. Quindi, e poi le ripetenze, che secondo me una squadra come la nostra, e poi mi permetto di dirti, e ho finito, anch'io sono allenatore, ecco, bisogna ancora un pochino lavorare per qualche atleta sui fondamentali, perché è un fatto importantissimo, perché abbiamo perso diversi palloni proprio perché si è sbagliato lo stop, eccetera. Il vento, che non sembrava che non influisse, ieri invece ha influito, infatti la traiettoria del pallone spesso veniva. Ecco, queste sono tutte le mie domande, te le ho fatte tutte. Iniziamo con la prima: il fatto che si scavalcava il centrocampo avversario con questi lanci lunghi. Allora, intanto buongiorno a tutti. La sua disamina è una disamina fatta da tecnico. Però non dobbiamo dimenticare che questa è una squadra costruita quasi per intero, con un'età media di 20 anni. Perché si è fatto questo? Si è fatto questo perché grazie alla famiglia Cimino, in particolare a Salvo Cimino, si sta cercando di programmare quello che è calcio, non fine a se stesso nella stagione 2012-2013, ma futurista, nel senso che andare a cercare nelle vicinanze giocatori che hanno esperienza nella categoria, però giovani, che posso dare continuità a questo tipo di progetto che la famiglia Cimino, e in particolare Salvo Cimino, sta credendo di portare avanti. L'amalgamare una squadra così giovane, fatta da tanti elementi che vengono da squadre diverse, con ideologie di lavoro diverso, comporta dei sacrifici, sicuramente del tempo. Noi siamo in campo dal 30 di luglio, forse siamo state una delle prime squadre in promozione a scendere in campo proprio per questo, che necessitava lavorare di più con più costanza. Certo, i numeri oggi sono dalla nostra parte, perché se a me dicevano che dopo 3 partite saremmo state primi in classifica, che qualunque cosa succeda oggi restiamo primi in classifica, dopo 3 partite con una squadra così giovane e nuova, io non ci avrei scommesso. Forse oggi, come dice lei, stiamo mettendo in campo più l'agonismo, la grinta, la voglia di non perdere mai, che è quello che poi ho sempre portato avanti, e lei da mio allenatore lo sa che è questo, per sopperire a quelle che possono essere le mancanze tattiche in campo. Questa squadra è destinata a crescere, perché i vari Geraci, i vari D'Amico, i vari Totocane sono gente che uscirà alla distanza, perché lavorando settimanalmente sicuramente questa squadra crescerà. Il fatto di scavalcare il centrocampo avversario era dovuto al fatto che loro avevano in mezzo al campo un giocatore di categoria superiore, si chiama Mondello, che scende dal 2-3. Numero 4, infatti numero quando 4, l'hanno sì. sostituito, scusa se ti ho interrotto, quando loro subito hanno perso il punto di riferimento. Infatti noi giocavamo perché loro a centrocampo erano messi a 5, mentre noi eravamo messi a 4, avevano questa persona in più a centrocampo che giostrava il fatto che noi nelle nostre attitudini di calciatore abbiamo la possibilità di avere sia D'Amico sia Geraci che hanno il calcio lungo, e cercare le due punte che ieri erano Totocane e Cicero, che attaccassero lo spazio. Le cose la sai, preparare la partita, poi riuscirci o meno è sempre difficile, anche ci sono gli avversari che sono avversari blasonati. Ma voglio ricordare che noi per ben tre volte siamo stati a tu per tu il primo tempo con il portiere avversario. Certo, se facciamo gol in quei frangenti forse la partita sarebbe stata diversa. Noi abbiamo affrontato nelle prime tre partite, e questo lo voglio ricordare, il Rocca di Capeleone e il Legia Virtus, che sono le due squadre accreditate per vincere il campionato, e questo veramente ci fa tantissimo onore, perché i ragazzi fino in fondo credono quello che stanno facendo, e questo è veramente, li devo ringraziare da parte mia, perché i ragazzi stanno veramente sopperendo quello che potrebbe essere oggi un aspetto tattico, con molta grinta e voglia di non perdere mai, e questo mi fa veramente piacere. Io ti ringrazio per quello che hai detto, perché indubbiamente, guarda, io ieri se non avessimo pareggiato, e al limite mi può stare stretto pure il pareggio senza nulla togliere all'Igea, che è una squadra competitiva, però debbo aggiungere che i nostri ragazzi ci hanno messo il cuore, come sicuramente nelle partite precedenti, per fare risultati, ed è un risultato che abbiamo meritato. Soprattutto l'azione, ecco, quelle pochissime volte che abbiamo sfruttato la fascia o le fasce, ecco, in quel caso là le abbiamo disorientate, perché abbiamo dei ragazzi velocissimi, dei ragazzi proprio che ci sono in campo, e sono convintissimo che prossimamente lavorerai in questo modo. Certo, non abbiamo Mondello in campo, che per loro faceva tutta la squadra, infatti poi quando è uscito ci siamo accorti come si sono disorientati, anche per un calo secondo me atletico. Io invece mi debbo complimentare intanto per questa grinta che riesci a trasmettere. Non era facile a un certo punto pareggiare poi quella partita dopo quelle occasioni mancate, così per un non niente, con quei tiri che possono succedere e capitare, però ecco, avremmo preferito che il pallone l'avessero messo dentro. Avete portato il pubblico al Santa Barbara, l'avete riportato. Adesso io sono convintissimo che il pubblico aumenterà, sono convintissimo che la squadra migliorerà. È, come hai detto tu, una squadra di giovani, quindi caro presidente, ecco, ci vuole, e poi siete un gruppo molto affiatato. Ecco, io ieri ho visto il vicepresidente, che saluto, Toto Valenziano, che al termine della partita andava a ritirare le bandierine che sono messe per gli angoli, per i calci d'angolo, e quindi anche questo è molto sintomatico. Presidente, lei sta vivendo questa avventura, come sta vivendo questa avventura della squadra Cefalù Calcio? Io devo ringraziare particolarmente parte dei componenti della dirigenza che mi hanno tirato in campo per affrontare questa avventura. Li ringrazio quasi ogni giorno, perché giornalmente scopro delle emozioni che prima sconoscevo, giustamente. E non sono stato un atleta in passato a livello agonistico, ma semplicemente un praticante di arti marziali. E oggi scopro effettivamente il significato anche di fare gruppo con la squadra, e sono circondato dal punto di vista dirigenziale anche da persone veramente che mi stanno sostenendo e mi aiutano, anche perché giustamente non è il mio mestiere questo, non è il mio settore, e continuo sempre di più a appassionarmi e continuo ad alzare un pochettino i livelli che vogliamo tutti quanti raggiungere. Ecco, prima di lasciarvi, perché so appunto che dovete andare a visionare una partita anche per vedere prossimamente come andare a giocare con questi avversari, io intanto rinnovo i complimenti, perché vedi, in questo mondo di svaghi potersi continuare a dedicare e come lo fate voi allo sport, al calcio, a stare con i giovani, andare a cercare questi giovani, ad avere cercato delle spese contenute, questo è un patrimonio. La domanda la faccio a te, però il presidente mi sta ascoltando. Io sono convintissimo, e lo ripeto quello che ho detto prima, che con due piccoli ritocchi questa squadra ci continuerà a far sognare, anche se, come dicevi tu prima, intanto godiamoci questo grande successo che stiamo vivendo adesso, non solo perché siamo primi in classifica, ma anche per quello che esprimono i ragazzi in campo, soprattutto questo cuore che ci mettono e questo attaccamento alla maglia e ai colori. Io mi auguro di poter vedere pure quelle giallo-nere, caro presidente, senza nulla togliere alla maglia di ieri, ma sai, io in Radio Cronaca ieri ho detto per due volte cefaledum, chiedo anche scusa, ma insomma per me adesso è la SD calcio Cefalù, Cefalù calcio, quindi questo è importante. Ecco, due piccoli, stiamo parlando di gennaio, non stiamo parlando di adesso, secondo te? No, intanto lei ha fatto bene a sottolineare l'aspetto fisico perché è atletico, perché il ringraziamento va a Sergio Musotto che sta facendo un grandissimo lavoro, è il nostro preparatore atletico. Deve considerare che manca Alessio Puccio, che è l'acquisto, quella torre che avevamo preso dal Forte dei Marmi, e si è infortunato alla prima partita, ce lo aspettiamo con piacere, e fra una ventina di giorni dovrebbe essere già pronto, che, ed è quella rete che potrebbe darci una mano al centro di area. E poi non dimentichiamoci il valore di Domenico Geraci, che è quello che ci può dare anche per la sua esperienza, che è un giocatore che lo scorso anno ha vinto il campionato con la Tiger dalla promozione all'eccellenza, ed è quel giocatore che tecnicamente ci può dare quel valore in più. Credo che la squadra sia completa, che non dimentichiamo l'ultimo acquisto con il ragazzo del 94 che l'anno scorso ha giocato con la Brescia del Siracusa, Domenico Culotta, che anche lui ha bisogno di lavorare tantissimo, ma è un valore aggiunto a questa squadra. Noi dobbiamo volare basso, perché il presidente lo sa, è una squadra giovane e il primo obiettivo è quello di raggiungere la soglia dei 40 punti, che è la salvezza matematica, per programmare poi il resto della stagione. Ma bisogna volare bassi, perché il calcio ti farà sorridere delle giornate e ti fa piangere per il resto delle giornate. Perciò bisogna volare bassi, lavorare con umiltà, con impegno, perché secondo me il lavoro e l'impegno porta sempre a dei bellissimi risultati. Ma ricordiamoci di volare bassi, perché le partite vanno vissute ad uno, perché è così che funziona, lei lo sa, l'essere ambiziosi e contro certi valori dice, sportivi, significa sbagliare. E noi non vogliamo sbagliare, vogliamo fare un passo alla volta, avvicinare il più possibile il pubblico cefaludese allo stadio, perché ricordiamoci che il Cefalù Calcio è un patrimonio della città di Cefalù, e sappiamo che il calcio è la prima passione per i giovani, per i ragazzini che si vogliono avvicinare allo sport, e questo è il nostro massimo obiettivo, vedere il pubblico cefaludese che ci incoraggia o ci applaude dopo il gol del pareggio. È stata un'emozione anche da parte mia, speriamo di avere sempre più persone. E l'invito è rivolto a tutti, anche all'amico Gioacchino Baracco, che ieri non c'era. Mi sono accorto che ieri non c'era. Io l'ho messo assente, tu mi hai dato il registro, io l'ho messo assente. Perché ripeto, Cefalù Calcio deve essere un patrimonio della città di Cefalù. Ecco, io vi saluto e rinnovo quello che ho detto prima. Ieri il CRM era presente con il direttore Mario Lombardo, Santi Genovese, e con il sottoscritto. Noi sicuramente seguiremo le dirette. Poi non mettiamo mai limiti, chissà se qualche volta non vi seguiremo anche in trasferta e faremo arrivare la nostra voce, sarebbe riduttivo dire soltanto a Cefalù, ma in tutti coloro i quali seguono lo sport e seguono le dirette. Grazie presidente Cimino, grazie al mio carissimo, non ti chiamo più Allevo perché l'Allevo da tempo ha superato il maestro, a Pino Minutella, e forza veramente a SD Cefalù Sport, perché quando dico forza non lo dico solamente agli atleti, ma a tutti coloro i quali ci hanno creduto e adesso ci stanno mettendo in condizione di rivivere queste gioie del calcio, il nostro calcio, quello che ci interessa, il calcio cefaludese. Linea alla regia, grazie.